Di Isabella Allende abbiamo già parlato in occasione dell'audiolettura di La Casa degli Spiriti. Ne lasciamo il link in descrizione per chi volesse ripercorrere le tappe biografiche. Vogliamo ora proporre un altro suo delizioso romanzo, La figlia della fortuna, che insieme a La Casa degli Spiriti, appunto, e a Ritratto in seppia, costituisce una sorta di trilogia. Nei tre romanzi, tutti ambientati in Cile, i personaggi si scoprono infatti collegati tra di loro. Nivea Del Valle, madre di Clara della Casa degli Spiriti, appare in Ritratto in seppia, dove vengono anche riprese le gesta di Eliza Summers, protagonista di La figlia della fortuna, insieme ad altri membri della famiglia Del Valle. Dunque, benché scritti dopo, La figlia della fortuna, i cui fatti iniziano nel 1843, e Ritratto in seppia, i cui fatti iniziano nel 1880, risulterebbero essere antefatti del primo romanzo, La casa degli spiriti, i cui fatti iniziano negli anni 20 del Novecento. La strana maniera che ha Isabella Allende di tessere insieme storie senza quasi farsene accorgere, fondendo storia e magia, realismo e miti popolari, è tipica della scrittura femminile latinoamericana, a cui la scuola delle donne è particolarmente affezionata e ha dato volentieri visibilità proponendo la lettura di altre autrici latine, le messicane Ángeles Mastretta e Laura Esquivel e la italo-nicaragua Gioconda Belli. E poi, come sempre quando si parla di Isabella Allende, davvero irresistibile il modo umoristico con cui crea le sue protagoniste senza falsi pudori, né paure, né remore. Donne che perseguono emancipazione e libertà, donne che nonostante le avversità riescono sempre a trovare un modo per andare avanti, per perseguire il loro scopo, per costruirsi la propria fortuna. Sono strane femministe sciamane, tra virgolette, le eroine di Isabella Allende, indipendenti e forti ma che inseguono l'amore, lucide e spietate ma anche fataliste, appassionate e languide, spregiudicate negli affari e nelle scelte di vita ma generose ed empatiche verso chi soffre e chiede aiuto. Donne magiche, impregnate delle affascinanti credenze popolari dell'America Latina, sono tutte irresistibili ed è impossibile non lasciarsene ispirare. Degno di nota in La figlia della fortuna è poi Tao, lo schiavo cinese venduto dalla famiglia a un armatore cileno. Tao però, grazie alle sue conoscenze erboristiche, diventa medico e salva la vita a Eliza, la protagonista. Il personaggio di Tao apre un nuovo squarcio sul doloroso fenomeno della schiavitù in America, triste capitolo della storia umana al quale come Scuola delle Donne abbiamo dedicato attenzione, proponendo l'audiolettura di Via col vento di Margaret Mitchell e La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe, e approfondendo in un docuvideo la figura di Harriet Tubman, la schiava che si liberò da sé e divenne generale durante la guerra di secessione. Scopriamo invece, in La figlia della fortuna, che la piaga della schiavitù non riguardò soltanto i neri in America, ma anche gli asiatici, soprattutto le bambine cinesi, che venivano vendute e avviate alla prostituzione. Anche per salvare loro, Eliza e Tao lotteranno. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi di Isabella Allende, La figlia della fortuna, Feltrinelli editore, traduzione di Elena Liverani. Da Devana, buon ascolto.